America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Boston. Mario Platero, fra poco il presidente del Consiglio Matteo Renzi andrà alla IBM, dove ci darà poi i dettagli su questo accordo per il rilancio, la ristrutturazione, la riorganizzazione di Expo. Quando lo abbiamo incontrato qualche giorno fa, il presidente mi ha detto: beh, questa tappa con la IBM sarà forse una delle tappe più importanti del viaggio dal punto di vista operativo, dal punto di vista della concretezza di un accordo. Ma ieri a Chicago c'è stata una tappa altrettanto importante che ha dato il contesto d'insieme per questa missione, soprattutto economica, del presidente del Consiglio, perché a Chicago, che poi ha il centro principale per le macchine utensili, il centro dell'ICE, dell'Italian Trade Agency, che si occupa di promuovere la vendita di macchine utensili, abbiamo avuto alcuni dati piuttosto importanti dell'anticipazione sulle nostre esportazioni negli Stati Uniti, che sono state per circa 40 miliardi di dollari nel 2015, un aumento del 25%, soprattutto un surplus di 25 miliardi a nostro vantaggio. Ecco, in questo contesto macroeconomico la parte del leone l'ha fatta il settore delle macchine, una quota, pensate, di 10 miliardi di dollari, e di 6 miliardi di dollari questi 10 miliardi sono di macchine utensili ad altissimo contenuto tecnologico. Questa è una cosa che l'America in qualche modo ignora, pensa all'Italia e pensa alla moda, pensa al cibo, pensa al vino, eppure noi siamo competitivi con Germania e Giappone in questo settore e lo siamo in modo molto aggressivo. Ecco, questo è stato chiarissimo nel convegno sul manifatturiero di ieri, organizzato appunto dall'Italian Trade Agency, dove ha partecipato anche Matteo Renzi, dove ha partecipato Sergio Marchionne di Fiat Chrysler. Cioè, le nostre dinamiche competitive di nicchia, il nostro spirito di adattamento che caratterizza le piccole e medie imprese manifatturiere, soprattutto meccaniche italiane, ci ha consentito di restare a galla in una dinamica concorrenziale globale a dir poco furiosa e di rilanciare. Abbiamo assorbito il colpo della crisi del 2007-2009, abbiamo capitalizzato sulle tecnologie a laser che consentono tagli sulla lamiera molto più precisi e molto diversi tra loro dal punto di vista produttivo, abbiamo innovato nel settore tridimensionale e dunque, insomma, questo settore, devo dire, ieri è stato presentato a Chicago in modo molto molto eloquente. Abbiamo anche numeri sugli investimenti italiani in America: 5 miliardi, pensate, il 50% in più rispetto al 2014, nei primi sei mesi del 2015, investimenti diretti americani in Italia sono aumentati. E dunque, parlando al pubblico di questo convegno, il Presidente del Consiglio ha detto: non dobbiamo avere paura del futuro. L'Italia qualche volta ha paura del futuro. Non solo, nel momento in cui l'Europa ha paura di attacchi terroristici, ecco, noi dobbiamo dare una risposta con i nostri alleati che punta sugli investimenti. Cioè, la risposta a questi atti di terrorismo che vogliono impaurirci devono essere degli investimenti che guardano con sicurezza al futuro. Ho incontrato il Presidente del Consiglio in una visita al Fermi Lab ed ecco, vi ripropongo la chiacchierata che abbiamo fatto ieri insieme. Presidente, eccoci, volevamo sapere un po' il significato economico di questo viaggio, cioè oggi è la parte centrale del viaggio americano, si parla di esportazioni italiane, di un'Italia che riesce a essere competitiva sul piano globale, ecco, qual è la sua impressione, il suo messaggio? Beh, il 2015 è stato un anno in cui i rapporti commerciali tra Italia e Stati Uniti sono cresciuti, l'export è cresciuto in modo significativo, sicuramente anche in considerazione delle ragioni macroeconomiche, cambio, ma anche perché è stato un anno in cui abbiamo fatto molte iniziative, iniziative guidate dal vice ministro Calenda, adesso la delega ce l'ha Scalfarotto. Siamo passati da 29 a 36 miliardi di export, abbiamo fatto delle campagne ad hoc, penso in particolar modo sull'agroalimentare. Oggi credo sia molto interessante l'iniziativa sui macchinari, sull'automazione, la presenza dell'amministratore delegato di Fiat Chrysler questo pomeriggio, Sergio Marchionne, credo che sia un segnale in questa direzione del lavoro che vogliamo fare. Detto questo, possiamo definire gli Stati Uniti come uno dei paesi paradossalmente emergenti per il nostro export. Cioè, per anni si è detto i paesi emergenti dell'export sono i paesi emergenti, cioè Brasile, Russia, tutti i paesi che sono importanti, anche se qualcuno con alcune difficoltà. Quello che stiamo vedendo è che in realtà, se ci pensate, gli Stati Uniti sono il paese che ha dei margini di crescita fantastici nel rapporto con l'Italia. Quindi grande investimento, però accanto a questo io credo che una cooperazione stia in piedi se c'è una condivisione di valori. essere oggi al Fermilab ha questo significato. La cooperazione economica della Zanon di Schio o delle aziende di Genova hanno un valore perché ci sono dei cervelli italiani che collaborano, che inventano, che sanno fare cose che altrove non sono capaci, nessuno è capace di fare. È bellissimo questo è un messaggio che non sempre noi ci diamo. Quindi un messaggio per la globalizzazione anche. L'Italia sta crescendo, secondo lei? Assolutamente sì. Io ho detto a questi ragazzi, ma lo avevo già detto in Silicon Valley 2 anni fa, ai ragazzi delle start-up, noi non vi chiediamo di tornare a casa. Questo racconto retorico è un po' stanco, per cui dobbiamo riportare a casa i ragazzi che se ne vanno, è un ragionamento che non ha senso. L'Italia deve investire su un proprio sistema di ricerca che sia più in grado di attrarre e sia in grado di offrire a quei ragazzi, a quegli scienziati che vogliono tornare indietro, delle occasioni, se vorranno tornare indietro. Ma il nostro obiettivo non è riportarli indietro, il nostro obiettivo è, in un mondo globale interconnesso, far sì che ciò che viene studiato qui sia valorizzato dal CERN di Ginevra. Venendo qua ho ricevuto un messaggio di Fabiola Giannotti, che è la nuova direttrice del CERN, o al Gran Sasso o in altre realtà dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Insomma, in altri termini, ormai siamo interconnessi. Sì, tutto è globale. Cosa può mettere l'Italia in più rispetto agli altri? La qualità del capitale umano. Dobbiamo allora investire sulla ricerca, 2,5 miliardi pronti come investimento sulla ricerca, con un vero passaggio innovativo rispetto al passato, con una possibilità di creare un sistema in cui si dia certezze a chi vuole stare in Italia. Quindi un sistema di ricerca, concorsi prestabiliti, con la possibilità di avere dei tempi certi, piani di studio e lavori di equipe importanti, ma contemporaneamente massima interconnessione con queste realtà qui. Domani vediamo IBM, abbiamo visto Apple, abbiamo visto Cisco, parliamo con tutte le principali aziende. Io credo che vada creato un business climate più semplice. C'è una cosa che gli americani apprezzano, è la stabilità. L'Italia è tornata un paese stabile. Questa stabilità, lasciatemelo dire, è il frutto delle riforme del governo. Ora si tratta non soltanto di dare stabilità, ma di dare la possibilità a chi decide di investire di essere qua in Italia, di arrivare, di tornare qua in Italia e di fare operazioni win-win. Io sono molto ottimista sul fatto che, se smettiamo di vedere la globalizzazione come spauracchio e cerchiamo di valorizzare il capitale umano tipico del Made in Italy, il Made in Italy è anche l'intelligenza italiana. In tempi di intelligenza artificiale, altro settore su cui dobbiamo lavorare, l'intelligenza del capitale umano italiano è una delle nostre qualità più forti. Certo, vuol dire rottamare un meccanismo in cui per anni si è detto che l'Italia era soltanto il luogo dei problemi. Non è così. L'Italia ha i suoi problemi, li affronta, li supera, è una grandissima potenza mondiale. Non perché c'è questo governo o un altro governo, ma perché c'è questa gente che sono ragazzi straordinari, cui va il nostro grazie. E sul piano della crescita economica, stiamo crescendo? Qualcuno è pessimista? Qual è la sua impressione? Dopo vediamo 3 anni di crisi, finalmente un segno più. È chiaro che c'è un generale rallentamento dell'economia, ma il punto centrale è che noi siamo tornati nel gruppo. Ora, la vera questione, siamo stati nel gruppo di quelli che hanno un segno più. La vera questione è come investire di più su innovazione e capitale umano e contemporaneamente infrastrutture non soltanto tradizionali, ma infrastrutture innovative, dalla banda larga alla infrastruttura della ricerca e dell'università. Tutte questioni su cui nei primi 2 anni io ho fatto il lavoro che bisognava fare 20 anni fa, cioè le riforme istituzionali, il Jobs Act, la riduzione delle tasse. Dedicheremo i prossimi 2 a ragionare dell'Italia dei prossimi 20 anni. Innovazione, ricerca, cultura. Pensate, il simbolo più chiaro che qui raccontiamo è quello di Pompei. Pompei faceva notizia perché crollava ogni giorno qualcosa. Adesso Pompei fa notizia perché tutte le settimane avremo un quartiere nuovo. E questa è la bellezza dell'Italia che si rimette a fare il proprio lavoro. Sarebbero mille altri approfondimenti. Lei, da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, ieri la tappa era Chicago e dunque la canzone del giorno non possiamo che dedicarla alla Wind City, alla città del vento, in una magica interpretazione di Frank Sinatra in Chicago. Chicago, Chicago, that toddlin' town. Chicago, Chicago, I will show you around. I love it, bet your bottom dollar you lose the blues in Chicago, Chicago, the town that Billy Sunday couldn't shut down. On State Street, that great street, I just want to say, they do things they don't do on Broadway. have the time of their life. I saw a man, he danced with his wife in Chicago, Chicago, my hometown. Da Boston è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.